città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio, l'attimo in cui le macchine, i palazzi, le nostre giustificazioni cessano di essere quello che sono e diventano macchie e poi punti. Quella distanza dove la gravità è solo un ricordo, la gravità che trattiene le mie urla, la gravità che vince le mie ragioni, città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio. È lì che vorrei essere. Splendiamo di un buio feroce, stilando una retta in tre punti. Le viscere innescano il vuoto al netto del tuo disincanto. E quindi 21:25, eccoci in onda, Stefano Tarquini. Conosciuto meglio, come sapete, come avrete riconosciuto sicuramente la voce, come Ciccio dei Palcoscenico, insomma, almeno da queste parti. Allora, esce questo Cucina Vigliacca, che è, diciamo, un lavoro che in realtà è una raccolta che avevi preparato quasi nella tua infanzia, insomma, comunque molti anni fa. Sicuramente adolescenza, dai. Adolescenza. Infanzia, no, infanzia, sì, quasi. Però sì, da ragazzino. Post infanzia, dai. Sì. Vabbè, ovviamente non era, cioè, non è questo. Sì. Ci racconterai. Invece io volevo iniziare definendo, dandoti una definizione che è quella che poi così un po' scherzosamente, ma un po' anche poi risponde in realtà a verità. Sei un poeta operaio, insomma, ti presenterei così, nel senso che alla fine vai al magazzino. Guarda, allora... poeta non lo so, operaio sicuramente. dei tuoi termini, insomma, quello operaio è più sicuro. Quello è praticamente sicuro. E materialisticamente. Sì, quello sì. E forse pure questa cosa qui, perché comunque abbiamo frequentato, la mia, la tua generazione, che sono vicine, abbiamo frequentato... così, benché siamo dei prodotti della periferia, abbiamo frequentato delle scuole che in quegli anni comunque, al di là delle inclinazioni naturali che uno ci può avere, erano scuole ancora stimolanti, secondo me, che soprattutto non si preoccupavano se te dovevi trovare lavoro o no, non c'era alternanza scuola-lavoro, non c'erano tutti sti impicci, per cui appunto c'era la scuola-azienda, no? Sta fissa, per cui te ci riconosci con questo profilo, questo ritratto storico? Paradossalmente io sono un privilegiato perché ho fatto il classico, quindi non ho proprio rischiato di trovare lavoro dopo la scuola, me lo so ritrovato invece, cioè ero anche un pigro che cercava lavoro e sperava di non trovarlo, e invece sono uscito da scuola, ho cominciato a lavorare in fabbrica e sono passati praticamente 28 anni di magazziniere proprio 100%, insomma, a 360 gradi, e non ho mai rischiato di trovare il lavoro con la scuola, nonostante invece poi alla fine ho sviluppato da solo quelle che erano le mie passioni. E innanzitutto devo ringraziare che hai messo sta traccia di Massimo Volume, perché tu l'hai concepita come traccia. Per me è stata sempre una grossa, invece un grosso intro di un'altra canzone che era Ororo, perché certo, erano attaccate sostanze. Che poi qui palco c'era pure una cover. La facevamo e quindi secondo me loro si sono sbagliati, perché non saltava la. Non andava da 1 a 2 per dire su CD, era una cosa. Era un disco vecchissimo, tra l'altro certo, penso ormai deculto. Io c'ho il vinile. Io mi sa che ci sia vinile che CD. Vabbè, però insomma, però tanta roba. Vabbè, però Massimo Volume è sicuramente una delle ispirazioni, sì, appunto, sempre adolescenziali. Insomma. Sicuramente. Ho avuto la fortuna di conoscerli e di conoscere Emilio Clementi nel nome del rock a Palestrina. Palestrina Rock, c'è, cioè una di quelle cose che non esistono più, una di quei festival umani in cui comunque i gruppi stavano a mangiare e bere tra la gente, cioè una cosa meravigliosa. E noi di Guidonia, che a Guidonia insomma non c'era veramente niente, andavamo a Palestrina d'estate a vedere. Ecco, loro erano giovani, cioè io ero minorenne, loro erano giovanissimi, e l'incontro con Massimo Volume per quanto mi riguarda mi ha proprio spaccato in due la testa e aperto queste opportunità. Sì, sì. Però diciamo la passione per la scrittura un po' in tutte le forme, no? Sia della prosa sia della poesia. Ti senti più uno che scrive in versi, diciamo? Allora io c'è da fare un discorso lungo che non farò, quindi sarò breve. La narrativa, scrivere narrativa a certi livelli è qualcosa di veramente difficile e soprattutto di infinito. Per quanto riguarda insomma i testi poetici che più o meno posso scrivere io, perché ho un minimo di dimestichezza con il ritmo no, e il suono, perché vengo anche da insomma una trentina d'anni di musica, poi sono sempre pigro, quindi cioè scrivo una cosa fortunatamente in due versi ci puoi mettere un sacco di cose, però ci tieni a tenere separati comunque le due modalità ma di scrittura. Ogni tanto scrivo raccontini al lavoro quando riesco a nascondermi autoliberarmi dalla schiavitù, dallo stress insomma delle linee, della logistica, dello scaricare camion cazzi e mazzi, e un raccontino magari se lo scrivo, narrativa è proprio una cosa che mi fa paura, come sta cuffia che che fa un po' come per conto suo. Allora, invece che quale avevamo detto? Non lo so. Avevamo detto Pachiderma, oddio, allora, ci siamo persi. Vibris. Che sta verso la fine e poi diciamo perché le abbiamo accoppiate. Lo dici tu questo. No, le accoppiate sì, tu. No, sì, non lo so, magari lo trovi anche. No, a me mi è venuto spontaneo fare questa cosa, lo diciamo subito intanto che trovi Vibris. Perché alle volte i versi, i quattro versi che andrei a recitare, che andrei a recitare, sono rotondi, cioè sono chiusi a se stesso. Potrei anche metterli in loop e ripeterli all'infinito e hanno un senso. E sono precisi, cioè sono la non lasciano, sì. Sai le gioie della metrica. Non lasciano, a mio avviso, li devi lasciare suonare, non li devi interpretare, devi lasciare che entrino dentro e poi magari parliamo anche, non so se Massimo pure vuole aggiungere qualcosa e vuole cominciare anche lui a mettere il coltello nella piaga. Mi hanno precettato, io stavo qui già per altri motivi, come immaginate, è stata l'invasione. Sì. Tu hai letto questa raccolta di una cinquantina di... Una sessantina. Sono 60 pagine, poi penso così. Sì, ma sì. E che impressioni hai avuto? Allora, prima ammirazione, perché pensare di far leggere poesia agli altri è in un momento veramente difficile, e questo abituati a focalizzare l'attenzione non più di 40 secondi, ossia la durata di un video di TikTok per un ragazzo, ma anche ormai per gli adulti, e entrare in una rima, in una strofa che ti scippa la testa e magari ti porta via un po' di tempo per decifrarlo, oppure per accostarla a quelli che sono i pensieri suscitati in te. A me la poesia fa questo effetto, quando la leggo mi ci vuole tanto tempo, e perché poi la testa, magari una parola mi porta in voli pindarici, andare in chissà quale direzione, apre delle porte. E poi dice, cosa, come mai stavi in quel corridoio che ha aperto questa porta, quale c'è l'attinenza con il pensiero che ti ha suscitato, non sei neanche in grado di capirlo, no? Però è questo effetto è meraviglioso. E così, ecco, ci piacerebbe a tutte, ovviamente, immagino che si possa avere più poesia, insomma, nelle nostre esistenze, quindi il tempo, la voglia, no, di mettersi a pensare oltre il già masticato e cercare di decifrare quello che dice l'autore, che vuole dire l'autore, però poi magari non importa neanche, perché se suscita sentimenti in te che portano in chissà quale direzione, magari che anche sconosciuto l'autore ha fatto il suo lavoro. Quindi sono contento che ci leggi i tuoi lavori, perché io penso che solo l'autore oppure qualche straordinario personaggio, l'artista, sia in grado di svelare la poesia nel leggerla. Magari ci cimentiamo anche io e Stefano, vedremo che effetto che fa, ma non credo sia la stessa cosa. Va bene, allora abbiamo Vibris. Sì, e fa così. Sprezzante venerdì che ardi di lavanda, il sentiero dei roghi e del tuono spettina tra i crisantemi intonate vibrisse. portami su un pianeta uterino dietro serrande socchiuse e cobalto, dove sanguina peste analgesica e abbaiano diesel su asfalto. Mostrami la ghigliottina dove hai atteso per allontanarmi, la casa pineale annegata, la testa tagliata è la tua. Allora, Big Max aveva, intanto sì, c'è un cambio cuffia in velocità, stiamo ritornando in diretta, avevo alzato i microfoni a tradimento, quindi sì, ghigliottina, io ho scritto una nota piena di amarezza e gelido rancore, questa così tanto per dare un incipit. Ho sbagliato, cioè ho travisato. Non puoi aver travisato, cioè una volta che una persona mette nel, dice una poesia o scrive e la mette nel mondo, poi è il mondo che decide, a te suscita una cosa, a Massimo un'altra, cioè quindi anche ecco cercare di capire da dove sono partito, onestamente non me lo ricordo, però se vuoi ci mettiamo a tavolino e capiamo. Cioè, ci prendiamo qualche mese di tempo. Sì. Allora, quello che faccio io è cercare di, quello che cerco di fare io è mettere maggior contenuto possibile dentro a un un'intelaiatura di ritmo, no? Che poi prima ho detto metrica, in realtà metrica pure è una parola enorme che cioè nel senso è studi classici. Io l'ho anche studiata, però praticarla è veramente complicato, cioè sono sempre un pigro, quindi cioè ricordiamoci questo, che non va né male, no almeno lo ammetto, cioè nel senso probabilmente è una condizione magnifica per fare poesia, per cercare di fare la pigrizia è magnifica, probabilmente nelle crepe della vita c'ho tempo per scrivere, no? E anche nelle crepe al lavoro probabilmente, quindi nelle crepe del tempo, quindi questo, non so, volevi veramente capire da dove ero partito? No, questa delle poesie che ho letto, no, è quella che forse mi ci sono soffermato più lungamente, e mi è venuta l'idea, no, chissà se c'è stato una visione tutta intera oppure una parola alla volta è diventata questa poi. Beh, secondo me questa è forse è meno da ricercare un contenuto e ascoltarla, suoni soprattutto. Sì, guarda, di solito quando mi fanno queste domande dico altre cose, però qua mi sembra una situazione talmente amichevole che non mi va di... Sai, quando chiedono a qualcuno ma qua che volevi dire, io là vado proprio, comincio a parlare di cose che non c'entrano niente. In questo caso non lo faccio per rispetto e... tecnicamente così, proprio per dare pure un contorno e dei riferimenti temporali, dicevamo è uscito I giorni furiosi ormai 4-5 anni fa, non ricordo esattamente, ed era Enzo 4. Era una raccolta di cose che tu ci hai raccontato all'epoca essere state scritte in un lasso temporale enorme, praticamente da... paradossalmente più queste, lo sai? Più queste. Paradossalmente più queste. Allora, il discorso è questo: purtroppo quando tu consegni il lavoro finito all'editore, la poesia in qualche modo muore in quell'istante lì. Non poter rimettere le mani su una poesia è una cosa che per me è atroce. Cioè, nel senso, una volta che è pubblicato, vai a leggere, dici, cioè quella parola poteva essere meglio. Ma questo per il rispetto che io ho per la scrittura. Ci sono persone che pubblicano una volta ogni 3 mesi perché hanno esigenze loro, hanno un ego smisurato, non lo so quello che è. Però per me invece si può sempre fare meglio nella scrittura, e quindi. E quindi è un divenire, dici? Sì, no, pubblicare è un po' morire, diciamo. È fissare nel tempo qualcosa che invece... Vabbè. Io invece passerei al... Anche appunto poi per dare parole, facciamo questo, poi magari ci vengono... per Regina così ti aiuto, perché è abbastanza successiva. Successiva. Dunque... prima Big Max parlava di emozioni che uno riceve, che uno va a cogliere. A mio avviso, insomma, ma questo più conoscendoti come persona, che in realtà se non ti avessi conosciuto e non sapessi come la pensi e come vivi, non sarei stato in grado di decifrare questa cosa. Però ci stanno dei temi ricorrenti o delle sensazioni che ritornano. Te ne dico due al volo. Uno è appunto, mentre questa ghigliottina avevo indicato appunto Piana di amarezza e Giro di Rancore, ce ne stanno forse anche di più di due. Una è la meteoropatia, cioè il fatto che quando decidi di scrivere c'è sempre un qualche tipo di perturbazione atmosferica, o molto sereno, molto piovoso, o molto secco, e quindi c'è questo continuo riferirsi all'ambiente circostante. E l'altra cosa che è pure collegata a questa è, secondo me, la tua capacità, e qui ho scritto questa cosa qui rispetto ad Aperigima, una secchiata, tra virgolette, di sensazioni gradevoli, estive, in infradito. C'è molto di questa estate che ritorna, di questo baretto, allora, che è molto lontano dalla fabbrica, diciamo. L'abbiamo introdotto come poeta operaio, ma non c'è una cosa che è ambientata dentro la fabbrica, dentro il magazzino. È un rifiuto totale. A sarà una fuga. Sì, non so, chiamiamolo. Allora, allora, io ogni volta che faccio le presentazioni mi piace tantissimo, perché effettivamente da quello che poi mi riportano c'è una restituzione magnifica, nel senso, tu hai proprio preso il momento preciso in cui ho scritto. Ecco, adesso mi ricordo qual è la genesi di Aperigina. Cioè, questa l'ho scritta la prima vacanza che ho fatto da solo con mia figlia, ovviamente al mare. Sofia, la salutiamo. Certo, ovviamente al mare, ovviamente, cioè, io starei in infradito 365 giorni l'anno, ma per motivi proprio di rifiuto del lavoro, ma sì, anche rifiuto del lavoro, ma di attitudine mia, cioè. E ho scoperto adesso di essere, insomma, uno scrittore anche meteoropatico, nel senso di comunque metto sempre una connotazione come sono le condizioni atmosferiche, sì, insomma. Che poi sicuramente ci sarà sempre brutto tempo, no? Però è una cosa che contrasta invece quello che penso io della scrittura, perché se paradossalmente, cioè, allora, se uno insomma accostasse il brutto tempo a una minima sorta di tristezza o depressione, non è vero, perché io quando sono triste e depresso è l'ultima cosa che faccio è scrivere, ok? Quindi non mi fido manco tanto di quelli che mettono sulla sulla pagina i propri dolori personali. Secondo me tutto è finto, ma veramente tanto è finto, e lo sto capendo adesso che mi occupo di poesia da ormai da 4 anni. Mi occupo di poesia, cioè, veramente, ma non perché io scrivo. Lo vogliamo scrivo, dire ma così come inciso, conduci proprio un programma, una web radio. Due, uno in streaming su internet in cui c'è proprio la faccia dei poeti, in cui è proprio un in cui un ho live avuto, insomma. Sì, uno streaming, insomma, video in cui siamo alla 90ª puntata. Cioè, questo è il terzo anno, cioè ci ho avuto la fortuna di intervistare praticamente tutta la gente che scrive in Italia, che apprezzo, certo, ok, e anche il jet set, sai, il jet set poetico, no, ok, e quindi insomma qualche segreto lo so e me lo tengo per me, ma no, non è vero, lo dico. E quindi vabbè, beh, paradossalmente c'è una rabbia dentro di chi, di quelli, di quei poeti e di quelle poete che non arrivano, ok? E secondo me tanto è quello. Perché quando becchi un poeta, una poeta che sono arrivate, cioè sono amabilissime, sono persone amabili. Il problema sono. È sentirsi un po'. Non lo so. Io ho notato questo, che poi è quello che notavo tra i gruppetti, quando suonavamo, insomma, che ne so, dentro feste, dentro cose. Ci sono dei gruppetti che tendevano a no, perché se la sentivano calda, perché poi non hanno fatto un cazzo, cioè, per dire, capito, no? E bene o male noi abbiamo lo stesso savoir-faire da 20 anni, senza mai arrivare da nessuna parte, però senza mai neanche rompere i coglioni, certo. Vabbè, insomma, quindi per dare un segno, no, volevi aggiungere qualcosa, vai, non ti voglio limitare. Non mi ricordo da dove Aperigina, che okay. Era una secchiata di sensazioni gradevoli e stile, okay. Vado. Ave Regina, che getti la tua scala reale sui tavolini centro anziani, fiera, imbonitrice. Un numero estratto, una canzone nuova, un altro pubblico di karaoke, cassate siciliane. Attendi la maggiorità in comode rate, lasciando impronte impercettibili. Sguazzi tra pozzanghere e alvearità, non guardandoti mai le spalle. Ritagli una foto ultima, è la prima comunione di tua cugina, la confondi sempre con le altre. Assegni ad ogni persona una speranza, un rosario sgranato come t'hanno insegnato i nonni, che ci sono ancora, sono i nomi che pronunci ancora. Il tuo ombrellone è volato via, luci dalla vetrata di una chiesa, disegni che fatichi a guardare, le acque mnemoniche si aprono. Custodisci nel cartone della pizza le reliquie di ieri, l'olio nel panno carta. Ti insegno le carte napoletane, ti lascio la matematica, le sottrazioni di questo tempo palmerino, la noia di chi guarda un mare calmo. Rimetti l'acqua in frigo, le barche dei pescatori ferme al porto. Siccome è invece il 24 di gennaio e la nostalgia, che è uno dei temi dello scrivere poetico, dello scrivere in versi, è senz'altro un elemento determinante, appunto, e si ha nostalgia quando si ha lontananza, non possiamo che farti leggere 10 agosto, però prima c'è, siccome siamo dei cazzari essenzialmente, quindi 10 agosto ovviamente è che giorno è? La notte di San Lorenzo. La notte di San Lorenzo, e infatti poi capirete dalla lettura che cosa si fa la notte di San Lorenzo. Io in realtà però ho scoperto che anche la giornata del biodiesel, quindi ho interpretato la giornata mondiale del biodiesel. Che culo. È quello che ti cercavo di, cercavo di interpretare, capito? Però non riuscivo a capirla. E se sentiamo questo biodiesel. Allora, Dice Agosto fa così. Nascosta oltre le maglie di una rete, macumba e grosse code da scoiattolo, contavamo decollare aeroplani, 5 io, 7, vinci tu. Nuvola di pozzolana e tarocchi, ti fa tossire la tua nuova vita di stelle cadenti, ma solo il 10 agosto, non prima, non dopo. E stropicciarsi gli occhi nebulosi fino a vedere ombre di salamandre e grigio di cavallette. Chiedimi un passaggio per l'estate indiana, torrenti mascherati Dalai Lama, acrobazie, altalene, parlare per ore restando in silenzio. Tocca a me. Allora, guarda, io prima di leggere questa cosa che mi avete obbligato a leggere, e Spine si chiama la poesia, è interessante. Sì. Allora, perché anche la forma a questo punto della poesia ha un suo significato. La forma vedere. Geometrica, dici? Eh sì, la forma geometrica, come sono disposte le parole, evidentemente hanno un significato. Anche perché, no, la cosa che mi facevi riflettere prima, no, invece di come appunto siamo abituati invece a giostrare con i social e quindi con un altro tipo di scrittura, no, in cui appunto come dici te leggiamo centinaia, migliaia di parole anche abbastanza e forse molto più disordinate di quella che potrebbe essere una poesia che è fatta apposta così, no? Cercando appunto nelle opposizioni, nelle contraddizioni, negli ossimori l'essenza, no? Di quello che si vuol dire ma che non si potrebbe dire. Non si possono, nella poesia, non, almeno quella era regola che una delle regole. Ah, perché nella poesia c'è una regola? No, però delle regole grafiche sì, non so se ci stanno te, magari sei più ferrato, no, se ci stanno, c'è chi mette le faccine o cose del genere. Cioè, ma non sono ferrato con le regole, quindi non... Guarda, no, no, dico, ma esiste nella poesia chi mette le faccine o esiste di tutto. Purtroppo esiste di tutto, cioè c'è un non ne fai ricorso, vedi, però. Come per fortuna. No, io non la parola è la parola. Gli emoticon dici? Sì. No, non no, io no, però non lo so. Dovresti metterli, perché a Stefano piacciono. Okay. No, assolutamente no, io penso. Ora, voleva qualche modo. Comunque sì, per... Esatto, vai, ritornando al discorso. Per essere cattivi, no? I poeti hanno risolto la questione dei refusi inventando la licenza poetica, no? Certo. E quindi fanno quello che vogliono, e giustamente, una bella libertà. E allora questa poesia molto breve che probabilmente... piegherebbe due righe, sì, in orizzontale, sì, sì, messa in verticale, una parola alla volta, che rende forse più complesso leggerla, però ha il suo perché nel momento che la si legge. Spine. A tutela del freddo spicchio di mondo che abitiamo in camicie da quattro soldi, connessioni calibrate togliendo dagli occhi di vetro le spine dei cardi. Allora, quindi, ritornando, io intanto ti propongo un'ultima cosa, poi diciamo andiamo verso le conclusioni. Ma guarda, posso? Certo, certo. No, biancosarti. Lo so, non l'avevi selezionato. No, non lo segnalo. Però... Allora, noi ne facciamo due, tanto facciamo in no, tempo. No, perché c'è il... Perché dovevamo, io volevo affrontare anche Forca d'Acero, che ritorna in una, l'ambientazione Forca d'Acero sta in mezzo, credo. Però io non toglierei Biancosarti. No, no, Biancosarti è Forca d'Acero. No, come vuoi, l'ordine è indifferente. Biancosarti è Forca d'Acero. Biancosartila, dai. O un Biancosarti a Forca d'Acero. Ci sta. Allora, Biancosarti va così. Nella magnifica follia del mondo di biancosarti sorseggiati a pelle, di cubi cinesi col nastro di raso per le ginnaste, senza sorrisi di forza, senza entrate di sicurezza, non dormire mai e non sognare mai le viole, i coni alla marena capovolti, le giravolte, falle un'altra volta, i singhiozzi, i salti in banco nell'uscire dall'utero. La linea sottile dove i denti entrano nelle gengive, l'innesco e il girasole, non il cerchio della radice, non il dolore. Dei vivi spezzano intere corpi a metà, rimbalza sul davanzale rumore di forchette e l'alba sempiterna tarda ad arrivare. Allora, qui bisognerebbe conoscere Forca d'Acero, perché suppongo che sì, se sai, no, che sì. Una, diciamo quanto può essere, quanto puoi pensare allo scrivere nel camminare, e soprattutto nel camminare bene, nel camminare fondamentale. Cioè, camminare è fondamentale per fare un lavoro su se stessi, che è guardarsi dentro. Cioè, io mi facevo, perché sono 2 anni che non cammino, e come hai notato appena sono entrato, e cioè mi faccio delle chiacchierate con me stesso infinite, e ovviamente eccola lì che ogni tanto esce fuori qualche parola che mi innesca altre cose. Forcadacero è un nome magnifico, cioè che talmente poetico anche nella che è la toponomastica, sì, la, sì. Ci potremmo fermare, cioè, solo al titolo, diciamo. Forcadacero è poesia già da, sì, da sola, cioè non, io non ho fatto niente, ha fatto tutto lei. E sì, cioè camminare è magnifico, per io lo invito a farlo a tutti quanti, e parlare anche ad alta voce, nonostante magari potessimo sembrare dei matti. Dei matti, ma anche perché poi il parlarsi ad alta voce, il leggere ad alta voce quello che si scrive, aiuta tantissimo, e non lo fa quasi nessuno. Perché poi la maggior parte delle persone che scrivono, quando ti leggono quello che scrivono, sembra che te stanno a fare un favore. Cioè, mo non è che dobbiamo essere attori, perché gli attori recitano, gli scrittori leggono. Però anche quando si legge c'è un minimo di, no? Ma e parlare a voce alta anche quando si sta da soli, per me è meraviglioso. A me mi piace, non lo so. Sarò. Andato così, però probabilmente sì. A note conclusive, parlate da soli. Forcadacero è poetico ancora di più, perché dico, perché non c'è manco un acero, cioè un ossimoro proprio per definizione. È una faggeta enorme, non si vede nulla a Forcadacero, cioè, non c'è panorama. C'è questo bosco bellissimo, ovviamente. Beh, è la strada, però, è molto Twin Peaks, turistica. È molto linciana, sì, la strada. Sì, sì, cioè, sì, per citare anche, certo, uno dei più grandi, sì, poeti che ha fatto poesia, che ha fatto poesia con le immagini da pochi, cioè, giorni, certo, certo. Allora, concludiamo qui, 22.03, abbiamo rubato qualche minuto a Blues Night, però vogliamo dire che ci rivedremo sotto altre forme il 5 d'aprile. Sicuramente il 5 aprile alla SNIA. Perché abbiamo fissato sta data, palcoscenico al Neon suoneranno, vediamo adesso come andrà costruita, fanno 20 anni. E quindi ci tenevano, visto che il primo anno del loro cominciare a cimentarsi con la musica, siete passati qui a Via dei Voci 56. Va bene. E allora, per concludere, appunto, mandiamo un palcoscenico al Neon quasi recitato. Ringraziamo Stefano Tarquini, ringraziamo Blues Night. Grazie a voi. Grazie Stefano. Dai. Sospeso nel tempo, sospeso.